Assolutamente, in generale c'è questa capacità di lavorare assieme fra persone, non soltanto di tutto il mondo, che vengono da paesi più anche o meno in guerra fra loro. Esattamente, persone che vengono da paesi in guerra, paesi che non sono amici. Mi ricordo un'estate dei giovani israeliani e palestinesi che avevano organizzato insieme un grande party, una grande cena, a cui avevano invitato i loro colleghi e i loro amici, organizzato appunto da giovani israeliani e palestinesi. Beh, questo è un grandissimo esempio molto di pace. Bello. 800 24 0024 il numero verde, 349 238 6666 l'SMS, sono le 9:23, via con il file. Quanto prende di pensione lei? Quanto è? 460 oh, quelli viviamo. 460 euro. La pensione è quella che è dura. Irene ha 81 anni e faceva l'operaia. La casa non è riuscita a comprarsela e così sono 51 anni che vive qui, al quarto piano di questo stabile popolare a Niguarda. Ma visti gli aumenti dell'affitto, ha scritto una lettera al comune. Vorrei che voi teneste conto di tutto questo mio disagio e conteneste questi forti aumenti di affitto. Ben 100 euro in un anno, dall'anno scorso a quest'anno 100 euro. Quanto prendere? Ogni 2 mesi 200. Ogni 2 mesi 200 euro? Ogni 2 mesi. Gli hanno staccato la corrente e da 7 mesi Pietro vive al buio. 400 euro di pensione e bollette non pagate per 700 euro. Fanno un po' dell'acqua qui, sul fuoco, mi metto lì con la bacinella e mi lavo un po' la morte. 80 euro al mese a chi? Agli operai che lavorano già. Mi sento umiliata, mi sento distrutta, perché non ce la faccio. E basta, non ce la faccio. Mio marito è malato, io sono senza pensione. Se non mi dà la mano qualcuno, no, non ce la faccio. Devo chiedere magari dei piccoli aiuti. Peggio della guerra, siamo arrivati 50 anni indietro già. Ma qui la gente senza lavoro, disoccupati, con figli da mantenere. Non si può più andare avanti così, perché ci stanno riducendo la fame, senza diritti, senza lavoro, senza dignità. Siamo gente che non ce la fa alla fine del mese. Assisto al risultato pratico di questa bomba sociale, vecchi contro giovani e giovani contro vecchi. Bimbo, non si devono mettere solo i pensionati, esistono solo i pensionati, devono pensare anche agli altri, il futuro anche degli altri. Andiamo sempre avanti, sempre pensionati, pensionati e pensionati, basta però. Ecco, era un pezzo tratto da Ballarò. Chiara Saraceno, sociologa, si è sempre occupata di povertà, di disuguaglianza. Lo scontro generazionale che abbiamo sentito alla fine del pezzo è inevitabile, eh? Buongiorno. Buongiorno. Non è inevitabile, no, anche perché è una rappresentazione in parte sbagliata del dramma che stiamo affrontando. La questione non sono vecchi contro giovani, perché ci sono pensionati poveri o addirittura vecchi senza una pensione sufficiente. Ecco, però, sì? Dottoressa Saraceno, gli italiani in condizione di povertà assoluta sono raddoppiati dal 2008, certo, a oggi. Sono i colletti bianchi adesso che rischiano di più? No, sono in grande misura coloro che hanno sempre rischiato molto, che sono in Italia sempre di più famiglie con figli minori, in particolare con 3 o più figli minori, soprattutto se vivono nel mezzogiorno. Quindi la povertà assoluta raramente riguarda i colletti bianchi, anche se negli ultimi anni c'è un crollo, c'è naturalmente verso, sì, in una parte dei colletti bianchi una diminuzione degli introiti, tenore, sì, di vita, e anche hanno, si è sfiorata anche un po' di deprivazione, ecco, eccetera. Ma dottoressa, soprattutto ma se sono le famiglie monoreddito, questo, certo, è il problema. Perché in Italia, voglio sottolineare, è aumentata, è uno dei paesi europei in cui è aumentata quella si chiama la inward poverty, cioè la povertà nonostante ci sia il lavoro, perché non sempre un solo reddito da lavoro riesce a far fronte a mantenere la famiglia. Ecco, dottoressa Saraceno, ma quando ha iniziato ad allargarsi la forbice della disuguaglianza sociale? La la disuguaglianza sociale è stata fortissima negli anni 90, nei primi anni 90 ha raggiunto la sua punta più alta in Italia, poi è andata diminuendo, ha ricominciato a riprendere negli ultimi anni del 2008, quindi non abbiamo raggiunto le punte degli anni 90, ma è ricominciata a riaprirsi, sia se consideriamo i redditi, quindi il 20% che ha redditi più alti e il 20% che ha redditi più bassi, sia se consideriamo la ricchezza, quindi ecco, i patrimoni. Dottoressa Saraceno, l'Unione Europea ha fatto uno studio molto complesso per misurare il tasso di disuguaglianza in ogni paese. Ci spiega brevemente come si misura? Si misura appunto guardando il reddito, quindi guardando quello che si chiama i 20 coloro che stanno nel ventesimo più alto, che prendono il decimo più alto e il decimo più basso, si guarda l'entità della distanza, che in Italia, se non ricordo male, chi sta più in alto ha un reddito di quasi 6% di più, quasi 6 volte di più di chi sta più in basso. Oppure si può guardare la distanza tra chi ha i più grandi patrimoni e chi invece non riesce neanche a risparmiare. Sono queste due le misure più importanti. Dottoressa Saraceno, ma l'origine è la precarietà del mercato del lavoro che è all'origine di queste diseguaglianze di povertà? Non solo, perché l'Italia è stato sempre un paese in cui l'incidenza della povertà è stata abbastanza alta e anche la sua concentrazione nel mezzogiorno. Certamente, quindi siamo un paese con uno dei tassi di povertà più alto tra quelli sviluppati e anche con un più alta forma di concentrazione territoriale della povertà. Ecco, ma questo modello di sviluppo che crea queste diseguaglianze crescenti uccide le classi medie? Progressivamente? Non uccide le classi medie, ma le diversifica molto al proprio interno. Ormai semmai la classe media è stata un gruppo omogeneo, che non è davvero vero, perché è composta di tutti. Ci sono dei professionisti come gli impiegati a reddito fisso, ecco. Oggi dentro la classe media assistiamo a una maggiore divaricazione. Ecco, senta questa storia di un uomo di 60 anni che aveva la sua attività, una vita normale, e si è ritrovato in una situazione disperata. Povertà. Tutto è iniziato nel 2010, quando la mia compagna è morta, il classico tumore, quindi terminale proprio. Da un anno avevamo comprato casa e purtroppo ho dovuto subito rivenderla e al di sotto di quello che l'avevo comprata, perché la banca chiedeva i soldi, erano 3 mesi che non pagavo il mutuo e quindi ho pagato tutto quanto quello che c'era da pagare e mi sono rimasti pochi soldi in tasca. Purtroppo per starle vicino non ho voluto metterla in una clinica, l'ho voluta tenere a casa, sperando in un miracolo. Ma prima cosa facevi? Nella vita ho fatto diversi lavori, diciamo, ho lavorato 15 anni in un'agenzia di viaggi, poi per migliorare con la mia compagna, appunto Laura, abbiamo deciso di licenziarci e di aprire una frutteria. Ecco, abbiamo tirato per 5 anni, poi abbiamo fatto quasi 30 milioni di buffi e quindi poi la finanza che ci stava dietro, perché non pagavamo le tasse. Torniamo a quando è morta Laura e ha dovuto vendere casa. Come hai reagito? Mi sono rimboccato le maniche e ho trovato lavoro nelle Marche, in un'azienda agricola. Lì ho lavorato per 10 mesi, mi hanno pagato soltanto 2 mesi, i primi 2 mesi. Poi mi hanno detto: Daniele, mo te li diamo. Alla fine ho dovuto dire basta. Da quanto tempo non hai niente? Alla fine dal 2013. E adesso che fai? Adesso vivo alla Caritas. Ho inviato più di 300 curriculum in tutta Italia. Mi sono iscritto a tutte le agenzie interinali, da Milano alla Sicilia. Purtroppo non mi ha risposto nessuno. E il primo giorno alla Caritas te lo ricordi? All'1:10 quel giorno piovevo, ero zuppo, ti ho detto. Era la prima esperienza proprio, non da barbone, da senza tetto, diciamo, perché non avevo più niente. E adesso cosa ti piacerebbe fare? Io tutto. Io non sono di quelle persone che dicono non so fare, perché basta un pochettino di volontà. Io ho fatto di tutto. In questi anni dove, tra virgolette, avevo una vita tranquilla, avevamo casa a Campo di Carne, quindi avevamo un terreno, un piccolo terreno, io lo coltivavo, c'avevo l'orto, venivano Mi piace tutto ciò che è natura. Hai figli? Io ho un figlio di 35 anni e lui è purtroppo, pure lui ha un lavoro un po'... sta in un'agenzia di scommesse e lavora solo 4 ore al giorno quando lo chiamano, quindi ha un lavoro pure lui precario. Si è sposato l'altro anno e quindi c'è una casa molto piccola con la moglie e lui non sa che sto a quella casa perché per dignità non ho avuto il coraggio di, cioè già tanti problemi insomma, e non volevo caricarlo di altri. Ecco, dottoressa Saraceno, per chiudere, lei ha scritto che una soluzione possibile per combattere la povertà è quella del sostegno di inclusione attiva. Mi dice in due parole cosa vuol dire? È una cosa che esiste in quasi tutti i paesi europei, cioè una misura di sostegno al reddito per le persone che si trovano in povertà, che li aiuti a traghettare, li aiuti rispetto al trovare un lavoro, che li aiuti ad arrivare eventualmente alla pensione, almeno la pensione sociale. Ecco, ma c'è nell'agenda politica di questo governo un atto concreto per contrastare la povertà? Purtroppo no, la povertà, che non è mai stata molto alta nelle agende politiche dei nostri governi, sembra quasi sparita dall'agenda di questo governo. C'è una sperimentazione, una delle tante di quella che si chiama carta acquisti o che adesso hanno rinominato, sì, era di Tremonti, sì. Ma come dire, è di nuovo sperimentale, sì, per alcune persone, per alcune categorie, insomma non è una misura strutturale, non è, e soprattutto certo, c'è una forte ostilità. Anche l'altro giorno mi è sembrato, discutevo con Tonini, siamo in chiusura, il quale diceva, è come se i poveri non avessero diritto, si dice dovrebbero lavorare, ma come? E se nel lavoro manca non il lavoro, e nel frattempo quel signore lì non è che non voleva lavorare, certo vorrebbe. Grazie dottoressa Saraceno. Mix 24. Rosa gialla, rosa di rame, mai ballato così a lungo, lungo il filo della notte, sulle pietre del giorno. Io suonatore di chitarra, io suonatore di mandolino, alla fine siamo caduti sopra il fieno. Ma non era allagata la metropolitana stamattina? No, non era allagata, ma il racconto si riferisce a quello che è accaduto questa notte. Come? Stanotte c'è stato vento ed è stato tutto un rovistar di pezzetti. Quindi labbra al sapor di miele, rose di rame e pezzetti di vita che sanno cavare musica dalle foglie. E c'era la signora Libertà, la signorina Fantasia, tra le nuvole di dubbi e pezzetti presi in trappola da tailleur grigio fuvo, pezzetti raccolti dal vento, tessuti dal re dei ragni, Fabrizio De André, se ti tagliassero a pezzetti. Signora Libertà, signorina Fantasia, così preziosa come il vino, così gratis come la tristezza, con la tua nuvola di dubbi. Allora Mario, nella tua pentola cosa bolle oggi? Tantissima realtà. Per chi suona la campana? Senti, senti. Suona per Obama. Mi dispiace. Mi sa di sì. Mi dispiace, però come avevamo detto giorni fa e come era insomma preannunciato dai sondaggi da settimane, è arrivata la sconfitta alle elezioni di midterm. Allora, i democratici non controllano più né la Camera, e questa già l'avevano persa, né il Senato. Conseguenze, perché tutti adesso si chiedono, vabbè, ma che succede? Beh, intanto tu hai, voglio dire, un congresso repubblicano, comunque maggioranza repubblicana e la Casa Bianca Democratica, questo vuol dire molto, no? È il teorema dell'anatra zoppa. Poi c'è una questione, cioè che cosa dovrà fare Obama, perché comunque ha 2 anni di governo davanti del suo programma politico. È chiaro che i repubblicani cosa faranno? Useranno questa forza al congresso per condizionare le sue scelte, questo mi pare elementare. Bisogna chiedersi su che cosa? Sulla politica estera? Ma guardate, negli Stati Uniti non si vota con diciamo il manualetto della diplomazia in mano. No. Si vota con il portafoglio in mano. E quindi? E quindi in agenda c'è la riforma dell'immigrazione e della corporate tax. Queste sono le cose, le due cose che mi vengono in mente subito che sono importanti. In più segnalo che la ripresa economica degli Stati Uniti, che si è consolidata, sì, resta pur sempre una ripresa economica, diciamo, fatta con gli estrogeni, parliamoci chiaro. Quindi alla fine della fiera, quando tutta la polvere si sarà posata, noi che cosa dovremo fare? Pagare. Che dovremo? Pagare come al solito. Anche se ho un sospetto anche su chi pagherà, ma non so, sentiamo. Io sono l'avvocato Kobayashi. Il mio cliente mi ha mandato qui per farvi una proposta, signori. Cosa vuoi? Il mio cliente richiede i vostri servizi, signori. Un solo colpo, un giorno di lavoro. Un solo molto colpo. Pericoloso. Lui non pensa che ne uscirete tutti vivi. Ma e cioè, secondo me, pagherà qualcuno che dirò tra poco. Tutti. Va bene. Dopo e Sara. Intanto, Sara con la sua quota rosa. Shinzo Abe, il primo ministro del Giappone, il postulatore delle tre frecce, poteva essere il Robin Hood delle quote rosa nipponiche, invece pare stia incontrando molte resistenze. Le donne in Giappone sono ancora schiacciate tra la scelta di diventare madre o il lavoro. In concreto, se sei incinta ti licenziano e oltre la metà dei giapponesi pensano che le donne debbano stare a casa. Abe diceva che la sua rivoluzione economica era impossibile senza un ruolo delle donne nell'economia. Ecco Mario, non voglio pensare male, ma un dubbio mi viene. Forse lo diceva perché in Giappone le donne guadagnano il 60% in meno degli uomini e hanno poco, pochissimo potere? Non tocchiamo Shinzo. Shinzo Abe. Ma non tocchiamo le donne, non Shinzo. Sì, ma Shinzo farà le riforme, vedrai, vedrai. Vabbè, aspettando le riforme, dove andiamo, Mario? Andiamo in un altro posto. Attenzione! Ve lo ricordate, era Giochi senza frontiere. Allora, l'ha inventato De Gaulle, Giochi senza frontiere. Quando l'Europa, veramente. Quando l'Europa era migliore per di questa. Fare l'Europa dei me. Popoli. Hanno fatto non degli eurocrati. Hanno fatto l'Europa degli eurocrati. E infatti è un disastro. Allora, la deflazione sta facendo terra bruciata. A proposito di chi paga il conto, capisci? La previsione UE per la crescita del 2015 è un misero 1.1% medio, quindi niente. Stime per Germania e Francia nettamente al di sotto delle prime proiezioni. L'Italia, ragazzi, è buio pesto. Allora, avete visto le dichiarazioni di Juncker contro Renzi? Sì. Primo segnale d'attenzione, della tensione, seguirà Katainen, statene certi. Il governo non ci ha ancora detto come era uscirà. Quello che tu avevi previsto. Ero in buona compagnia. E quindi Renzi, in queste condizioni? Temo che sia molto tentato ad andare alle elezioni. D'altronde di un diversivo avrà pur bisogno a un certo punto. Quindi se non si sblocca la situazione in Europa, cosa di cui dubito, le elezioni in primavera cominciano ad essere un'opzione. E intanto Salamino. Mi dispiace dovervi comunicare, cari amici, che purtroppo è morto un gallo. Oh Madonna signor, Madonna signor, Madonna signor. Il gallo è morto, il gallo. A Milano. E stiamo parlando di Milano, che è la città vicina all'Europa. Beh, come sapete, ci sono le case popolari. E ce ne sono di case popolari in tutta Italia. Se non sono periferia, però fanno quartiere, sono mura di popolo e raccontano il significato che è tutto di attesa e speranza del tetto sulla testa. A Milano, però, che è la città d'Italia dove più di ogni altro posto il popolo è stato motore di cambiamento, un anziano, per come racconta il Corriere della Sera oggi, ha paura di uscire di casa perché rischia di ritrovarla occupata dagli abusivi. E oggi Giovanni Berardelli sul Corriere scrive: siamo un paese che produce molta retorica sulla legalità. Ed è vero, io proprio non me lo sono letto, riletto questo editoriale, ho cercato di capire perché a Milano un vecchio non può uscire da casa col rischio di ritrovarsi queste mura rubate sotto il muso. E poi leggevo, mi informavo, scoprivo che per esempio a Roma in certe zone, e lo ricorda il Corriere da Milano, si formano accampamenti illegali e si organizzano i racket dei questuanti. Tutto questo mentre Ignazio Marino fronteggia l'emergenza esponendo ieri, 4 novembre, la bandiera arcobaleno. Ah, beh, stiamo proprio... C'è la censura in radio? Ma sì. Non tanta. Sì. La radio sì. 24, se no. Dipende a che ora. Insomma, è morto il gallo. Nostro galloschi, mortoschi. Mix 24. Maurio, ancora una bolla? Sì. Let's Stay Together, Tina Turner, fantastico. E bisognerà pur stare assieme, però per stare assieme poi bisogna pagare dei prezzi, e forse il prezzo che sta pagando l'Italia è molto alto. Parliamo ancora una volta dell'Europa, c'è un filo conduttore, certo, in tutte le cose. Leggevo una bellissima provocazione di Jim O'Neill, che è stato il capo economista di Goldman Sachs dal 2001 al 2011, il guru, diciamo, della grande firma della finanza internazionale. Insomma, ve la faccio breve. Dice, vabbè, allora ci sono tutte queste regole europee, non funzionano evidentemente, no. L'Italia ha bisogno di far ripartire il PIL nominale, ma queste regole lo impediscono, l'ortodossia tedesca punisce e qualsiasi... Allora... Bene, se non centriamo gli obiettivi dell'inflazione vicino al 2%, allora deve essere punita la Germania pagando una tassa che poi viene ridistribuita agli altri paesi che hanno il deficit. Beh, è una grande provocazione, susciterà dibattito. Era mi su sembra Bloomberg molto, View stamattina. Molto interessante. E intanto l'ultimo salamino. Sono io adesso non sono io. Comando supremo, 4 novembre 1918, ore 12. La guerra contro l'Austria-Ungheria, che sotto l'alta guida di Sua Maestà il Re Duce Supremo, l'esercito italiano, inferiore per essere messi. Allora, sono io adesso, ho voluto fare parlare, firmato Diaz, per disintossicare le orecchie degli ascoltatori, perché già con gli occhi li hanno dovuti chiudere ieri, perché non solo uno squinternato sindaco si è ostinato a esporre la cosiddetta bandiera arcobaleno davanti al monumento dei caduti in quel di Messina, ma l'ha ripetuto appunto. Ma c'è sempre la censura in radio? Sempre. Ah sì, perché sì. L'ha ripetuto quello lì, Ignazio Marino. Un'altra volta. Oh, sì. L'ha fatto, sì, per copiare lo squinternato. Viva, firmato Diaz. 4 novembre, che se lo ricordasse. Se lo ricordasse. Si leggesse il libro di Cazzullo, La guerra dei nonni. Che cosa dice il libro di Cazzullo? È la guerra dei nonni, è il primo in classifica. Primo in classifica, strano. E certo, ha superato Vespa. Davvero? Sì. Vespa non è ancora uscito, ma già sarebbe in classifica. Però ci sono già le anticipazioni di ogni genere. Senti, certo. Facciamo il canzoniere. Volgete gli occhi a veder chi mi tira, per chi non posso più venir con voi, e onoratel che questi è colui che per le gentili donne altrui martira. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 66, l'SMS. Il 20 gennaio del 42 a Berlino i massimi vertici dei nazisti stanno mettendo a punto il progetto dei campi di sterminio. A presentare quel terribile disegno di morte il generale dell'SS Adolf Eichmann. Come esperto della questione ebraica e come responsabile dell'ufficio 4B4 della Gestapo e dell'ufficio centrale per la sicurezza del Reich, è mio compito occuparmi del sistema di trasporto degli ebrei. Il nostro progetto prevede che l'operazione si svolga nel seguente modo. Una volta scovato, l'ebreo verrà registrato e arrestato. Dovrà cedere al Reich la proprietà di tutti i suoi beni. Gli verrà concesso di portare con sé solo una valigia e 50 marchi e quindi verrà avviato ad uno scalo ferroviario isolato per essere caricato su un carro merci e portato alla sua destinazione finale. Ecco, oggi con Marina Milone raccontiamo la storia di Eichmann, l'ideatore, il pianificatore dello sterminio degli ebrei. E per, c'è un tweet? Sì, Sara? C'è un tweet molto carino che conferma quello che ha detto la Gianotti. Andrea Azzini dice: alla mensa del CERN io, stagista studente, incontrai Carlo Rubbia. Hai democratica capito? Veramente. Hai visto? Mangiavano tutti insieme. Fuori luogo è l'aggettivo democratico. Democratico? No, che c'è? All'Accademia con Platone ci stavano tutti insieme. Non erano democratici. Quoto buttafuoco, ha ragione lui. Allora, per salutarvi, Califano con un tempo piccolo. Ah. Difesi l'anima su te l'anonima e mescolai la vodka con acqua tonica e pranzai tardi all'ora della cena e mi rivolsi al libro come una persona, guardai le tele con aria ironica e mi giocai i ricordi provando il rischio poi di rinascere sotto le stelle, dimenticai di colpo un passato folle.